Terrorismo internazionale. Carcere a Bari, due affiliati ad Al Qaeda erano a capo di una rete europea e progettavano attentati. Nel mirino anche l'aeroporto parigino Charles de Gaulle. Berlusconi sui respingimenti difende Maroni, esegue le mie indicazioni, poi aggiunge sui barconi c'è gente reclutata dai criminali. Il Papa a Gerusalemme, l'appello dalla spianata delle moschee, il dialogo con l'Islam sia senza riluttanza e ambiguità, e al muro del pianto la preghiera per la pace. Disegno di legge e sicurezza, il governo ha posto la fiducia sui tre maxi emendamenti, la votazione avverrà domani. Espulso dagli Stati Uniti e ora in Germania, il cosiddetto boia di Sobibor è responsabile dello sterminio di 29.000 ebrei durante il nazismo. GR Extra Large, una buona giornata da Alessandra Tedesco. E buongiorno anche da Alessio Maurizi. Il primo piano, l'operazione antiterrorismo della Digos di Bari, che ha individuato due presunti leader di Al-Qaeda in Europa. I due, un siriano con cittadinanza francese e un francese, erano già in carcere perché accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E allora ci racconta tutto in diretta da Bari Giovanni Longo. Effettivamente sì, il responsabile della comunità islamica in Belgio, Bassam Ayaci, 63 anni, origine siriana e cittadinanza francese, Raphael Marcel Friedrich, 34 anni, francese, erano stati arrestati lo scorso novembre nel porto di Bari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A bordo del loro camper proveniente dalla Grecia c'erano tre siriani e due palestinesi nascosti in un sottofondo. La Digos di Bari in quella circostanza sequestrò sei pendrive in cui, tra gli altri documenti, era archiviato persino un testamento redatto da un aspirante attentatore in partenza per l'Iraq, ma arrestato in Belgio prima che compisse un attentato suicida, e poi indicazioni sulle modalità di addestramento e proselitismo dei potenziali kamikaze, dalle intercettazioni ambientali. In carcere risulta che i due progettavano un attentato nell'aeroporto parigino Charles de Gaulle. Su questo aspetto però ci sono ancora delle indagini in corso, come ha spiegato ai nostri microfoni Claudio Galenzano, dirigente dell'Ufficio Antiterrorismo Internazionale. Esistono dei frammenti di conversazione che però devono essere interpretati in un contesto più ampio, che è quello della caratura dei personaggi. Ci troviamo di fronte a soggetti di elevato spessore politico-ideologico, di grande motivazione religiosa, e che potevano essere in condizione di compiere qualunque tipo di atto. Tuttavia questi frammenti di conversazione di per sé lasciano intendere comunque, insomma, iniziative controindicate, possiamo definirle così. Qual è il ruolo delle due persone arrestate? Si è parlato di attività di proselitismo, di addestramento, in concreto che cosa risulta dalle indagini? Dalle indagini risulta che loro fanno parte integrante della catena di trasmissione mediatica di Al-Qaeda per l'Europa, ricevevano documenti, video e altre informazioni, tutte che poi venivano immesse sul web e che sono state sottoposte a sequestro dalla polizia di Bari. Il fatto è che questa documentazione costituisce il master, cioè l'originale, che poi viene immesso sul web con finalità di propaganda e reclutamento. Grazie Giovanni Longo, collegato con noi da Bari. Del resto questa non è la prima volta che vengono svolte in Italia, nel nostro paese, delle operazioni contro il terrorismo internazionale. Alessio. Eh sì, ecco, allora una ricostruzione delle principali indagini che hanno riguardato proprio il terrorismo internazionale e la rete terroristica che fa capo a Osama Bin Laden. Gli ultimi arrestati a Milano sono ancora in attesa di giudizio. A loro, due egiziani, per la prima volta è stata contestata la progettazione di attentati in Italia contro il Duomo, caserme e supermercati. Ma dal 2001 a oggi nel nostro paese sono 107 le persone già condannate, almeno in primo grado, dopo essere state catturate in indagini sul terrorismo internazionale. Cifre che portano l'Italia tra i primi posti in Europa. La quasi totalità, 73 delle condanne, c'è stata a Milano, dove pure bisogna ricordare circa una decina di assoluzioni. Così, ad esempio, 8 anni è stato il verdetto per l'egiziano Rabei, assolto invece a Madrid dall'accusa di essere la mente della strage dell'11 marzo. 5 gli anni inflitti al somalo Ciise, 4 invece, e l'espulsione dall'Italia è stata la condanna definitiva per il marocchino Mohamed Daki, prosciolto nel 2005 dal giudice Forleo in base ad una distinzione tra terrorismo e combattenti per la libertà. Alla maggior parte dei condannati è contestato l'arruolamento di aspiranti martiri da spedire in Iraq o Afghanistan, e a molti anche il sostegno finanziario. Ma molto spesso catturati per terrorismo internazionale sono stati poi condannati per documenti falsi. Tutti algerini sono i 18 già condannati a Napoli, 15 invece a Bologna, dove San Petronio è considerato un possibile bersaglio. Da breve Brescia erano partite le prime inchieste per terrorismo internazionale, arrivate ora a 7 condanne, una anche a Perugia e Torino. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. Veniamo ora alla visita del Papa in Israele. Oggi a Gerusalemme è stato alla Spianata delle Moschee, dove ha parlato del dialogo fra Chiesa Cattolica e Islam, ma anche al Muro del Pianto, punto di riferimento per la religione ebraica. E andiamo in diretta con Carlo Marroni da Gerusalemme. Buongiorno Carlo. Sì, buongiorno a voi. Questa mattina alla Spianata delle Moschee il Papa ha parlato appunto di superare le incomprensioni e i conflitti del passato con i musulmani, ha rilanciato il dialogo anche con gli ebrei in questo messaggio di alleanza e di civiltà che già nei giorni scorsi aveva detto, ha fatto una visita simbolica al Muro del Pianto dove ha recitato un salmo accanto a un rabbino e poi successivamente ha depositato un messaggio di pace e di riconciliazione con gli ebrei. E qui in Israele naturalmente la questione della visita del Papa che fa notizia è ancora il discorso di ieri al memoriale dell'Olocausto, che dove il Papa ha parlato appunto della memoria dei morti e ha auspicato che non accadano più vicende tragiche come la Shoah. Tuttavia in Israele è considerata quella di ieri un'occasione mancata, il discorso è stato giudicato un po' tiepido perché il Papa non ha mai detto che lui è un tedesco, come del resto l'ha già fatto in passato ad Auschwitz, e non ha mai citato il fatto che furono i nazisti tedeschi a compiere questa tragedia. Questa sera la messa pubblica nella valle di Josafat sotto la città vecchia e domani la visita a Betlemme con il popolo palestinese. E per ora da Gerusalemme è tutto, linea allo studio. Grazie Carlo Marroni. Noi ora Alessio invece parliamo di politica italiana. Sì, veniamo in Italia, andiamo alla Camera dove questa mattina è stata posta la questione di fiducia sui 3 maxi emendamenti che riguardano il disegno di legge sulla sicurezza. La votazione arriverà domani, facciamo il punto con Elisabetta Fiorito. Come ha già annunciato nei giorni scorsi, il governo pone la fiducia sul disegno di legge sicurezza. A chiederla nell'aula di Montecitorio questa mattina il ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito, contesta l'opposizione per Antonello Soro PD. 3 fiducie sul disegno di legge disattendono le sollecitazioni del Capo dello Stato e violano la logica del voto segreto. Per l'Italia dei Valori il regime c'è e il governo umilia il Paese. Ma per il Presidente della Camera Gianfranco Fini la tesi dell'opposizione sull'incostituzionalità delle norme è problematica ed opinabile, quindi i maxi emendamenti sono ritenuti ammissibili. Vediamo adesso la maggioranza. Per Roberto Cota, capogruppo della Lega, è naturale e doveroso porre la fiducia sul disegno di legge perché il governo deve riaffermare il proprio programma elettorale e mantenere le promesse fatte ai cittadini. Il primo voto di fiducia si terrà domani alle 10.30, le dichiarazioni avranno inizio alle 9.30, la fiducia sugli altri 2 emendamenti verrà votata a seguire nel corso della giornata, mentre, ricordiamo, la Camera è disgiunto, la votazione finale del disegno di legge si terrà giovedì alle 12.30, le dichiarazioni di voto avranno inizio un'ora prima e il question time, generalmente che si tiene il mercoledì pomeriggio, si terrà il giovedì pomeriggio. Per il momento qui da Montecitorio è tutto a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Tra l'altro lo ricordiamo, in questo disegno di legge è compresa l'introduzione del reato di clandestinità e il Presidente del Consiglio Berlusconi ha parlato ancora questa mattina dei cosiddetti respingimenti dei migranti, ma di questo parleremo dopo le 13.15. Ora invece ci occupiamo di cronaca. Sì, andiamo a Firenze dove la Guardia di Finanza ha smascherato un gruppo di 8 persone che lavoravano per la Camorra, riciclavano denaro sporco. Sentiamo. Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno Alessio. L'operazione Botero ha permesso di fermare e arrestare una cellula malavitosa di stampo camorristico proveniente dal sud Italia e che aveva intrapreso alcuni traffici in Toscana. A capo c'era un ingegnere, Salvatore Coppolla a Prato, i finanzieri del GICO, del Comando Provinciale di Firenze, hanno individuato una nuova agenzia immobiliare che poteva contare su ingenti quantità di denaro. In particolare 4 anni fa era stato versato sul proprio conto corrente 1 milione di euro in contanti, che poi è risultato essere il frutto di un traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Quattrocchi hanno portato all'arresto di 8 persone originarie soprattutto delle province di Napoli e Caserta, tra cui spiccano alcuni elementi legati al clan dei Casalesi e Mazzarelli. I finanzieri hanno sgominato l'organizzazione che riciclava denaro sporco utilizzato per l'acquisto di immobili da parte dell'agenzia Rosa Immobiliare di Prato. Contestati anche i reati di usura ed estorsione. Sono stati sequestrati patrimoni mobili e immobili per 10 milioni di euro. Oltre oltre 150 i finanzieri coinvolti nell'operazione scattata stamani all'alba, che hanno effettuato 39 perquisizioni nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Prato, Lucca, Milano e Lodi. Ubaldo Cianciulli, GR24, Il Sole 24 Ore, Firenze. E c'è un'altra vicenda che viene da Lecce, dove sotto shock tutta la polizia stradale della città, perché sono finiti in manette 16 agenti della polizia stradale con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla concussione. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di 6 mesi di indagine, durante i quali sono state fatte numerose intercettazioni. L'attività investigativa coordinata dalla Procura di Lecce ha messo in evidenza una rete, un consolidato sistema di concussione che durava da almeno 20 anni e si concretizzava nella riscossione di somme di denaro e nell'acquisizione di beni materiali da parte dei poliziotti. A pagare imprenditori, commercianti, erano 100 le aziende taglieggiate. Ci spostiamo ora a Mosca, perché entra nel vivo oggi con la prima delle due semifinali l'Euro Festival, ossia il Sanremo a livello appunto europeo. Sabato la finale con il vincitore assoluto di un'edizione però che è stata alquanto turbolenta. Dovrebbero essere solo canzonette, ma l'Euro Festival, che da 54 anni celebra la canzone europea, quest'anno è diventato una bagarre politica. Vladimir Putin ha visitato a sorpresa gli studi di prova e ha stretto la mano alla coppia di cantanti azeri, Aizel e Arash, tra i favoriti per la vittoria. Loro sì che ci saranno, mentre è stata esclusa, guarda caso, la band georgiana Stefan and 3G per la natura politica del testo, con il doppio senso, neanche troppo sottile, we don't wanna put in, non vogliamo put in. Guarda caso, in programma proprio in questi giorni un controfestival a Tbilisi, tra gli organizzatori lo scrittore Rafael Glucksmann. Peraltro la stessa rappresentante russa, l'ultranazionalista Anastasia Pritkotko, canta per metà nella lingua madre, l'ucraino, una canzone con le parole di un esto nella musica di un georgiano. Ma c'è dell'altro. Al centro di polemiche, soprattutto in Israele, il duo Noa Mira, le cantanti ebrea ed arabo-cristiana che propongono una canzone di pace. Tra i gossip invece tiene banco a Mosca la promessa del popolarissimo duo lesbo-pop Tattoo di convolare a nozze in caso di successo. Intanto però per il giorno della finale il non tollerantissimo sindaco della capitale, Yuri Lushkov, ha vietato il Gay Pride e per protesta gli olandesi Toppers minacciano di non partecipare alla finale. It's my time. L'Italia non concorre da anni perché non accetta di trasmettere la finale in diretta. L'unica un po' italiana è l'inglese Jay Duen, padre di origini siciliane. Anche per lei, polemiche. Pare che il suo entourage abbia cercato di arrivare sino a Putin. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:17 minuti, GR Extra Large. Nella prima parte siamo occupati del terrorismo internazionale. In carcere a Bari sono finiti due affiliati, erano già in carcere ma sono stati raggiunti da nuovi mandati. Due affiliati di Al-Qaeda erano a capo di una rete europea, progettavano attentati in Francia, in Gran Bretagna, nel mirino c'era anche l'aeroporto parigino di Charles de Gaulle. Poi sempre per la cronaca, l'operazione a Lecce che ha decapitato la polizia stradale, sono finiti in carcere 16 poliziotti, taglieggiavano oltre 300 aziende. Poi a Firenze 8 affiliati alla Camorra riciclavano il denaro attraverso operazioni immobiliari. Poi il Papa a Gerusalemme, l'appello dalla spianata delle moschee, il dialogo con l'Islam sia senza riluttanza e ambiguità, al muro del pianto la preghiera per la pace. Adesso le notizie che riguardano il viaggio di Berlusconi in Egitto. Eh sì, Berlusconi insieme ad altri ministri del nostro governo si trova oggi a Sharm el Sheikh, dove c'è appunto si sta svolgendo un vertice fra l'Italia e l'Egitto, vertice nel quale si parla di questioni politiche come per esempio l'immigrazione, ma si parla anche di questioni economiche. Partiamo dunque dalle dichiarazioni di Silvio Berlusconi riguardo all'immigrazione. È intervenuto sulla famosa linea dei respingimenti dei migranti, che linea diciamo del governo italiano, che sta suscitando polemiche non solo all'interno del nostro paese ma anche a livello internazionale. Allora Alessio, che cosa ha detto Berlusconi a questo proposito? Sì, ha detto il ministro dell'interno Roberto Maroni, che tra l'altro si trova anche lui in Egitto per firmare degli accordi sul contrasto proprio della criminalità, dell'immigrazione clandestina. Ha detto: Maroni esegue gli accordi presi direttamente dal capo del governo, gli accordi con la Libia per il rimpatrio degli immigrati clandestini, gli oggetti gestiti io, li ho sottoscritti io. Maroni esegue quelli che sono gli accordi presi direttamente con Gheddafi. E poi ha parlato anche di questi barconi di immigrati. Sì, ha detto che sostanzialmente su questi barconi che salpano verso il nostro paese non sono fatti occasionali. Questi barconi non sono fatti occasionali, ma è il frutto di un'organizzazione criminale. Quindi a bordo di questi barconi vi sono persone che sono reclutate in maniera scientifica dalle organizzazioni criminali. Ma sentiamo un estratto di quanto ha detto il Presidente del Consiglio. C'è una collaborazione veramente intensificata e c'è soprattutto la prospettiva di un aumento delle nostre collaborazioni in futuro che ci rende molto molto soddisfatti. Io ringrazio il Presidente Mubarak per la particolare simpatia e attenzione con cui segue gli sviluppi di queste nostre collaborazioni e mi auguro davvero che tra i nostri due paesi possa svilupparsi una collaborazione che sia pari all'amicizia che esiste a livello di governi. E dall'Egitto avevamo impostato un collegamento con il nostro corrispondente, ma ci sono difficoltà con la linea telefonica e quindi chissà se riusciremo a sentire Gerardo Pelosi più avanti per raccontarci nuovi dettagli di questa missione che prevede anche degli accordi economici importanti tra Italia e Egitto. Ma a proposito di migrazione, le parole di Berlusconi insomma sono state ascoltate anche in Italia, ovviamente in particolar modo dal segretario del Partito Democratico Franceschini, che oggi sta presentando le liste per le amministrative. Allora sentiamo che cosa ha detto Franceschini in diretta da Roma. Andrea Viali. Andrea. Sì, Alessandra, anche Franceschini ha parlato dei respingimenti, ha detto che devono avvenire nel caso in cui ci siano ingressi di clandestini, ma vanno anche rispettate le norme internazionali sul diritto e poi ha anche assicurato che su questa posizione non ci sono divisioni all'interno del Partito Democratico, tutti la pensano in questo modo. A Berlusconi, che ieri aveva detto che quasi nessuno degli immigrati che arriva alle frontiere italiane ha diritto d'asilo, Franceschini ha invece ricordato che l'anno scorso su 36.000 sbarcati 31.000 hanno fatto domanda e la metà di questi ha ottenuto la protezione umanitaria. La Franceschini, come dicevate oggi, ha anche presentato le liste per il Partito Democratico per le prossime elezioni amministrative, liste, ha detto, che dimostrano il radicamento del partito sul territorio, mentre tutti i candidati, tranne quelli riconfermati, sono stati scelti con le primarie, ha sottolineato Franceschini. A voi la linea. Certo. E allora, dopo le altre dichiarazioni di Berlusconi dei giorni scorsi per quanto riguarda sempre l'immigrazione, il Premier aveva detto la nostra idea dell'Italia non è multietnica, abbiamo iniziato ieri una sorta di mini inchiesta, insomma definiamola così, stiamo ascoltando un po' il parere della gente comune sulla presenza dei cittadini stranieri. Oggi sentiremo due punti di vista, iniziamo con Roma. I cittadini romani hanno le idee chiare, integrazione sì, ma chi arriva nel nostro paese deve rispettare le regole. Troppe baraccopoli nella periferia e camminare per strada anche in centro la sera può essere pericoloso, ma se a tutti fosse garantito un lavoro e buone condizioni di vita, le cose forse cambierebbero. Sentiamo cosa ci hanno detto i passanti di Via del Corso. In Europa sono più avanti di noi. O ci integriamo come l'Europa, se no rimaniamo fuori. Beh, in linea con gli altri paesi del mondo, dare se possibile un'opportunità di inserimento anche nel mondo del lavoro. È troppo multietnico, nel senso che deve regolamentare l'entrata di questi poveretti, che noi vogliamo accogliere in maniera civile, non buttarli lì sotto ai punti del Tevere o alle baraccopoli, devono essere rispettati e quindi hanno tutti i diritti nel momento in cui noi glieli possiamo dare volentieri. Chi viene qua deve rispettare determinate regole, chi delinque giustamente va fuori. Cristina Fei, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma anche all'interno delle stesse città, la questione della presenza dei cittadini stranieri può essere vissuta in modo molto differente. Ieri a Milano eravamo stati nel quartiere Porta Venezia, dove convivono molte comunità straniere. Oggi siamo andati invece a vedere come si vive in una zona più critica, quella di via Padova. C'è il ristorante Tokyo, la polleria El Caragio, venditori di kebab ad ogni angolo. In via Padova, a Milano, il groviglio di generi e razze è vita comune, quotidianità che affonda le sue origini nella tradizione e nella storia. Cosa ne pensano le persone che frequentano questa via del multiculturalismo e come lo vivono? Sembra essere un quartiere arabo di Baghdad, non mi dispiace. Io sono nato proprio in questo rione qui, e cosa vuoi fare? Ormai siamo noi gli estranei qui. No. Ma quali sono i problemi principali in questa via? Che scippano, questo è logico, perché sono stato scippato in tre, ci hanno scippato ugualmente, che portano via i documenti e tutto. C'è un badante in casa e quando arriva dice: che roba, litigavano, ma cosa c'è in via Padova? Bottiglie dappertutto. Non ho problemi di rapporti, c'è solamente qualche esagerazione rispetto ai negozi di distribuzione degli alimentari, che di fatto divengono dei bar all'aperto con capannelli di persone molto spesso alticce. Sono un problema forse per le donne la sera. C'è paura di uscire perché tanta gente in giro, ma non degli italiani, stranieri come noi. In questa via io ogni tanto vedo che c'è del gruppo di uomini che fanno confusione, poi magari anche mancano il rispetto, è quello. Alle donne? Alle donne. E questo era il reportage di Micaela Nasca, realizzato a Milano in via Padova. Ora invece parliamo di ciclismo. Oggi quarta tappa del Giro d'Italia, Padova, San Martino di Castrozza. La maglia rosa Petacchi dovrà vedersela con l'arrivo in quota e 40 chilometri in salita. E ne parliamo con Giorgio Squinzi. Buongiorno. Buongiorno. Ex patron dell'AMAPEI, squadrone del ciclismo fino al 2002? Sì, fino alla fine del 2002. L'anno è corretto. Allora, tanto per fare qualche nome, sono transitati nella sua squadra Bugno, Ballerini, Bettini, anche qui spero di non essermi sbagliato. Taffi. Taffi, certo, ma... Museo, Donny Rominger. Museo tre volte campione della Parigi-Roubaix, se non sbaglio. Allora, il giro, parliamo del giro però, no? Il giro del centenario, c'erano molte aspettative, adesso è partito, è un giro un po' alla rovescia, le montagne fin dall'inizio e poi si arriva a Roma, lei che ne pensa? Ma è un giro anomalo, però tutto può essere interessante, vediamo poi, e poi guardate che non sono neanche tanti i percorsi che fanno i giri, ma sono i corridori, e quindi dipende da quanta battaglia si daranno e se sarà un giro interessante o meno. Ecco, quando si parla di ciclismo ormai negli ultimi anni, purtroppo spesso la parola ciclismo si accoppia alla parola doping. Certo, purtroppo sì. Ecco, in questo caso, Giro d'Italia, come la vede? Quest'anno dovrebbe essere un giro sicuramente più pulito dopo tutto quello che è successo l'anno scorso. Noi come MAPEI abbiamo un interesse particolare perché dalla nostra presenza del ciclismo abbiamo conservato il centro di ricerche MAPEI Sport di Castellanza, che si è occupato direttamente ormai da un anno e mezzo della preparazione di Ivan Basso, che rientra appunto al Giro d'Italia in un grande giro e da cui ci attendiamo una buona prestazione, anche se evidentemente non corre per noi, insomma. Però noi in MAPEI in questo momento facciamo il tifo per Ivan, che abbiamo visto la serietà con cui ha lavorato e la pulizia, i suoi esami ematologici sono pubblicati giorno per giorno sul sito del centro MAPEI Sport e quindi certo. È una garanzia di trasparenza. Insomma, Ivan Basso sono in molti a aspettarlo in questo giro. E parlando invece di un altro campione, Lance Armstrong, tornato al giro, anche lui un campione però molto criticato e perché chiacchierato. Lei che ne pensa di questo ritorno? Ma secondo me poteva risparmiarselo, che uno che vince 7 giri di Francia sarei sorpreso se torna e poi sia capace ancora di dire qualcosa, insomma. Però è stato un grande e vedremo se avrà ancora qualcosa discusso. Io personalmente ho avuto anche delle discussioni personali con lui, però bisogna rispettarlo per quello che ha fatto, insomma. Vedremo se riuscirà ancora a dire qualcosa al giro quest'anno. Grazie Giorgio Squinzi, grazie per essere stato con noi, buona giornata, grazie. Prego, arrivederci. GR Extra Large, questi i principali titoli della giornata. Terrorismo internazionale, in carcere a Bari, due affiliati ad Al-Qaeda erano a capo di una rete europea, progettavano attentati, nel mirino anche l'aeroporto parigino Charles de Gaulle. Berlusconi sui respingimenti dei migranti, difende Maroni, esegue le mie indicazioni, poi aggiunge sui barconi c'è gente reclutata dai criminali. Il Papa a Gerusalemme, l'appello dalla spianata delle moschee, il dialogo con l'Islam sia senza riluttanza e ambiguità e al muro del pianto la preghiera per la pace. Disegno di legge e sicurezza, il governo governo ha posto la fiducia sui tre maxi emendamenti e la votazione domani. Espulso dagli Stati Uniti, ora in Germania, il cosiddetto boia di Sobibor, responsabile dello sterminio di 29.000 ebrei durante il nazismo. Vi ricordate i Tremonti Bond? Ne avevamo parlato parecchio quando naturalmente erano stati lanciati. Si tratta di obbligazioni speciali che vengono emesse dalle banche e che il Ministero del Tesoro è in certo modo obbligato a comprare. Insomma, l'obiettivo è fare in modo che lo Stato aiuti in questo momento di crisi le banche ad avere soldi, ad avere liquidità per a sua volta fare prestiti alle imprese, mutui e così via. Ecco, la notizia di oggi sul Sole 24 Ore è che solo due banche, il Banco Popolare e Monte dei Paschi di Siena, sono in attesa dei Tremonti Bond. Come interpretare questa notizia? Una notizia positiva? Buongiorno, professor Marco Nado. Buongiorno, buongiorno a voi. Economista e tra l'altro uno dei massimi esperti di diritto bancario in Italia. Come prendere questa notizia? Poi magari ricordiamo anche come erano nati e perché i Tremonti Bond. Fondamentalmente è una dimostrazione del fatto che le banche italiane stanno meglio di tante altre, a cominciare da quelle americane che hanno avuto bisogno di iniezioni di capitale molto sostanziose. C'è poi la tendenza da parte di tutte le banche, anche qui a cominciare da quelle americane, a restituire il capitale, perché in qualche modo ci sono delle condizioni, mi riferisco soprattutto all'America, che le banche preferiscono non dover rispettare. Per esempio? Ma sempre nel caso americano, il tetto alla remunerazione dei manager. In altri paesi ci sono delle condizioni di vincolo, e questo anche in Italia, sulle modalità di crescita delle imprese, che potrebbero rappresentare in qualche modo un aspetto che le banche preferiscono, come posso dire, affrontare autonomamente. Ecco, ma questo vale anche per i Tremonti Bond. Una banca italiana, appunto, che dovesse chiedere aiuto allo Stato è vincolata a rispettare alcuni parametri, per esempio? C'è nel protocollo un impegno sul credito alle imprese, però vorrei precisare che questi bond servono a rafforzare il patrimonio della banca, non esattamente a fornire della liquidità che le banche non sarebbero in grado di trovare altrove, poiché la crisi ha aumentato la sfiducia nei confronti delle banche, e quindi avere più patrimonio è una condizione necessaria per poter rimettere insieme i circuiti del finanziamento del credito, a cominciare dalle imprese, da quello delle imprese. Ecco, proprio per quanto riguarda il credito alle imprese, se ne è parlato molto da parte delle banche. Qualche giorno fa il Presidente del Consiglio Berlusconi aveva detto: credo che le banche stiano facendo utili forse eccessivi e che non stiano facendo abbastanza le banche. Un tema di cui si è parlato molto in questi ultimi mesi. È cambiato qualcosa secondo lei? Questo sarà il tema cruciale delle prossime settimane, delle prossime mesi. Da una parte c'è l'impegno delle banche a garantire una certa quantità di credito all'economia, tutte hanno dichiarato buoni propositi e anche dei programmi precisi. Il punto è che la liquidità è veramente scarsa, basta parlare con qualsiasi operatore e si sa che in ogni settore i pagamenti sono rallentati e quindi c'è bisogno di maggior credito. A proposito di crisi, naturalmente i Tremonti Bond sono stati varati in un momento di crisi, appunto come dicevamo, per aiutare le banche ad avere più patrimonio. Arrivano dei dati, forse iniziano ad arrivare dei dati forse confortanti. Ieri abbiamo visto la produzione industriale a marzo, ancora un dato insomma piuttosto negativo, però sia Confindustria che l'ISAE dicono forse a partire da aprile si potrebbe invertire la tendenza per quanto riguarda la produzione industriale ed altri indicatori economici. Lei come la vede? Sì, io direi che è confortante che ci siano questi segnali. Si tratta di segnali abbastanza timidi per il momento e c'è da sperare che vengano consolidati. Questo però attiene non tanto al comportamento delle banche, ma alle politiche economiche dei governi. Grazie a Marco Nado, economista e, come dicevamo, considerato uno dei massimi esperti di diritto bancario. Buona giornata. Grazie a lei, voi, buona giornata. Proprio oggi sono uscite le valutazioni del Fondo Monetario Internazionale per quanto riguarda l'Europa. La recessione in atto nel mondo, ma in Europa in particolare, potrebbe durare fino all'inizio del 2010, dunque ancora un po' di attesa rispetto a quelle che erano le notizie che venivano ieri, come dicevamo, dalla Banca Centrale Europea e dall'OCSE. Secondo il Fondo Monetario poi c'è anche spazio, sempre in Europa, per un ulteriore taglio dei tassi di interesse. Fra oggi e domani un gruppo di sismologi italiani e stranieri sarà all'Aquila per fare il punto sul terremoto. E la scossa principale, lo ricordiamo tutti, è stata il 6 aprile scorso. E allora torniamo all'Aquila con Marcello Ianni. Marcello. Sì, buongiorno. Come dicevi te, sono arrivati stamattina alla spicciolata presso la scuola sottufficiali della Guardia di Finanza di Coppito, i più importanti sismologi al mondo. Una vera e propria commissione internazionale voluta dal capo dipartimento della protezione civile Guido Bertolaso per valutare le conoscenze attuali sulla previsione dei terremoti e per elaborare linee guida per la loro previsione e la loro prevenzione. La commissione di esperti effettuerà all'Aquila un ciclo di riunioni insieme ai tecnici del Dipartimento di Protezione Civile e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ne fanno parte, a far parte di questa commissione, 9 scienziati provenienti dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Francia, dalla Germania, dalla Grecia e dalla Russia. L'Italia è rappresentata dal professore Paolo Gasparini, docente di geofisica dell'Università Federico II di Napoli. Domani giornata clou con la chiusura dei lavori, i cui risultati saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta per mezzogiorno. Infine, nel pomeriggio, la commissione di esperti sarà accompagnata dal capo dipartimento della protezione civile in sopralluoghi nelle zone dell'Aquilano maggiormente colpite dal sisma del 6 aprile. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie anche per questa corrispondenza dall'Abruzzo. E di terremoto si parla però anche in Cina, a un anno dal sisma nel Sichuan. Nel Sichuan, la grande provincia del centro-sud cinese, la terra tremò. In pochi secondi, un terremoto devastante di grado 7,9 della scala Richter rase al suolo migliaia di centri abitati, sbriciolò le pendici delle montagne e deviò il corso dei fiumi. Il tragico bilancio del cataclisma fu di 70.000 morti e 18.000 dispersi. Oggi la Cina ha ricordato quella tragedia con un minuto di silenzio in tutto il paese e con una cerimonia di stato a Jingxiu, la cittadina epicentro del sisma. La ricorrenza è stata accompagnata da tanta autentica commozione da parte della gente, ma anche da tanta retorica propagandistica da parte del governo. La stampa nazionale ha raccontato molte storie commoventi dei sopravvissuti o ha enfatizzato la rapidità della ricostruzione, ma ha sorvolato sullo scandalo delle decine di scuole andate in frantumi sotto i colpi del sisma. Oltre 5.000 studenti morirono sotto le macerie perché gli edifici dove si trovavano alle 14.30 di quel maledetto 12 maggio erano stati costruiti con materiali scadenti. Un anno dopo il terremoto, per la Cina ufficiale, quella tragedia nella tragedia resta un tabù, un argomento scomodo di cui non parlare mai più. Luca Viciguerra, GR24, Il Sole 24 Ore, Shanghai. E siamo ora in grado di collegarci con Sharm el Sheikh in Egitto, dove, lo dicevamo prima, c'è il vertice fra Italia ed Egitto. Il premier Silvio Berlusconi ha parlato di immigrazione. Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore, purtroppo un po' rapidamente perché non abbiamo più molto tempo, che cosa ha detto il premier? Il premier ne ha parlato con il presidente Mubarak, adesso sono a colazione, finita proprio adesso la conferenza stampa. C'è uno studio dell'ONU che prevede per i prossimi anni un aumento della popolazione mondiale di almeno 2 miliardi di persone, sono persone che nasceranno nei paesi dove più poveri, dove sono fuori dall'area del benessere, quindi la spinta demografica crescerà. Cosa fare? Cercare di rendere questi paesi del sud del mondo più democratici, più liberi, aumentare l'imprenditoria in quei paesi, non dare aiuti a pioggia, denaro, sono d'accordo Mubarak e Berlusconi, ma cercare di costruire infrastrutture, scuole, ospedali. Sull'immigrazione Berlusconi aveva parlato anche prima del vertice per discutere di questa diatriba, di questa polemica tra AN e la Lega. Dice Berlusconi, non credo che ci siano delle polemiche in corso, non credo che si possa parlare di polemiche, intanto AN non esiste più nominalmente come un partito perché è confluita nel PDL, e poi in realtà certo la Lega esagera un po', ma sono più esagerazione di facciata che di sostanza, i signori della Lega sono persone per bene anche nelle amministrazioni locali, fanno quello che chiedono le persone, soprattutto quelle che hanno più bisogno, e quindi cerchiamo di non offrire all'opposizione pretesti come questo appunto della diatriba con AN o come altri con le ronde. Sull'asilo Berlusconi dice che praticamente nessun richiedente asilo è mai stato cacciato dall'Italia, però i barconi non sono fatti occasionali ma frutto di un'organizzazione criminale che offrono a chi vuole venire in Italia la possibilità di venire ma dietro pagamento. Queste persone praticamente hanno pagato un biglietto e non sono persone spinte da una loro particolare situazione all'interno dei paesi, quindi non fuggono da guerre, secondo Berlusconi, non sono vittime di ingiustizie, ma reclutati dal mondo del lavoro o del non lavoro e quindi sono praticamente reclutati da organizzazioni criminali. 13:46 minuti, nella prima parte di Extra Large ci siamo occupati, abbiamo sentito proprio poco fa le parole del Presidente del Consiglio Berlusconi a Gerusalemme sui respingimenti, difende Maroni, esegue le mie indicazioni e poi ha aggiunto sui barconi c'è gente reclutata dai criminali. E poi le parole del Papa, abbiamo sentito dalla spianata delle moschee il dialogo con l'Islam sia senza riluttanza e ambiguità. Abbiamo parlato anche della cronaca con i due affiliati ad Al-Qaeda in carcere a Bari, erano a capo di una rete europea, progettavano attentati in tutta Europa. È arrivato oggi a Monaco di Baviera John Demjanjuk, il presunto boia del campo di concentramento di Sobibor in Polonia. Era ricercato in Germania ed è stato espulso dagli Stati Uniti. Il ricercato John Demjanjuk, 89 anni, ex operaio di origine ucraina, noto come il presunto boia del campo di sterminio nazista di Sobibor in Polonia, dopo 3 decenni di battaglie legali e vari ricorsi in appello, torna in Germania. Fino all'ultimo la sua famiglia si era opposta alla sua estradizione, invocando motivi di salute e arrivando fino alla Corte Suprema. Ora la magistratura tedesca vuole metterlo sotto processo per lo sterminio di 29.000 ebrei. Demjanjuk ha sempre respinto le accuse, affermando di essere stato prigioniero dei tedeschi negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Ma chi era Demjanjuk? Liliana Picciotto, del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. È provato che lui faceva parte di quel gruppo di ucraini che si arruolavano per collaborare con le SS e di solito erano dedicati a fare la bassa leva criminale, cioè dedicati agli assassini proprio corpo a corpo, e quindi niente di più facile che Demjanjuk abbia fatto quello di cui è accusato. E adesso così il commento è: cosa ne facciamo di un corpo praticamente disfatto di un vecchio criminale? Allora la risposta non può essere che questa, che non è il corpo che vogliamo, ma vogliamo cercare dietro a questo corpo un senso a quello che ha fatto, e se non troviamo questo senso vuol dire che quella è mancanza di umanità e lui è l'emblema della mancanza di umanità del nazismo. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora ci spostiamo in Pakistan, dove ancora è drammatica la situazione dei profughi, mentre tra l'altro proseguono anche i combattimenti tra l'esercito pakistano e i talebani. Questa mattina nuove truppe sono atterrate nello Swat. Il massiccio esodo di civili scatenato dall'operazione militare decisa dal governo di Islamabad per affermare la propria autorità sulla valle dello Swat preoccupa le Nazioni Unite. Abbiamo raggiunto telefonicamente a Islamabad Arian Rummery dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. L'Agenzia ONU per i rifugiati e i suoi partner locali hanno registrato più di 500.000 di profughi, ci ha detto. Si tratta di persone che sono state registrate nei campi o comunque presso i nostri 28 punti di registrazione, allestiti a partire dal 2 maggio. Di queste, circa 72.000 persone stanno nei campi profughi, ma la maggior parte, circa 428.000, hanno trovato rifugio presso parenti o amici o presso comunità di accoglienza in altre città. Ma è difficile conoscere il numero esatto dei rifugiati perché molti non sono stati registrati e molti altri sono in arrivo. Dal momento che sono scappati molto velocemente e all'improvviso, hanno praticamente bisogno di tutto. All'inizio noi ci concentriamo sui bisogni primari. Per ora forniamo loro un posto per dormire, acqua, cibo e cure mediche. Nella valle dello Swat, regione in mano ai talebani più radicali, anche perché a febbraio lo stesso governo ha siglato un accordo con loro, Sharia, in cambio di rinuncia alle armi, stamattina sono entrate truppe aviotrasportate pakistane, preludio ad una nuova offensiva. Secondo le prime informazioni diffuse dalle TV locali, elicotteri con truppe speciali sono atterrati nell'eliporto situato nella parte settentrionale della valle, dove sono in corso da giorni i combattimenti. Fonti militari hanno annunciato alla TV che l'offensiva contro i talebani della zona è già cominciata. La regione è off limits ai giornalisti, quindi le notizie arrivano solo ed esclusivamente da fonti ufficiali. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Torniamo a parlare di cose di casa nostra. Sembra non esserci pace per l'Expo 2015 di Milano. Lucio Stanca, neo amministratore delegato della SOGE, la società di gestione dell'evento, minaccia le dimissioni se entro giovedì non sarà approvato il trasferimento della sede a Palazzo Reale. Questa però è solo l'ultima in ordine di tempo di una serie di liti che stanno ostacolando tutta l'organizzazione di questo maxi evento. E si scatenano varie dichiarazioni, varie ipotesi. Giuseppe Turani, editorialista di Repubblica, direttore di Uomini e Business, sostiene che bisognerebbe dar retta a Vittorio Gregotti che è alla sua proposta provocatoria. Milano rinunci all'Expo, questa era la proposta. Sentiamo Turani al microfono di Maria Luisa Pezzali. Sembra una gag di Striscia la Notizia, insomma. Ci hanno messo un anno per far fuori un manager brillante, eccetera, come Crisenti, per metterci un vecchio signore in pensione come Stanca. Insomma, un anno per un'operazione del genere è un po' tanto. Dopodiché adesso discutono ancora sui soldi da dare a Stanca, sulla sede che c'è, non c'è. Insomma, è una comica, voglio dire. Rischieremo di perdere 2 o 3 anni prima che, come dire, si diventi operativi. Ma veramente è molto più serio chiudere tutto, baracche e burattini, dare i soldi all'Abruzzo e dire ci rivediamo la prossima volta. Mi sembrano più eleganti. Perché non riescono a creare un modello organizzativo e di governance che funzioni e che dia inizio a tutti i preparativi? Sì, io un'idea ce l'ho e non è una bella idea, insomma. C'è qui la governance, il modello organizzativo non c'entrano niente, sono robe per i professori della Bocconi. Quello che c'è è che questo è un grossissimo investimento pubblico nell'area milanese, come non avveniva da decenni. E allora dietro le quinte di questi pasticci ridicoli ferve una durissima lotta per assicurarsi gli appalti, il controllo delle aree, eccetera, e quindi prevedo che comunque l'Expo non si farà perché finiranno tutti in galera prima, insomma. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessio Maurizi e Alessandra Tedesco, al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Fabio Cantadori. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Il prossimo GR è alle 15, Extra Large torna domani alle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.